Riprendiamo il nostro lavoro iniziato già ieri sera sulla tematica che sarà al centro anche di questa giornata, di tutta la giornata che si conclude verso le 6. Bioetica e teologia, dialogo, convergenze e divergenze. Per bioetica possiamo ritenere quella definizione abbastanza libera, ma penso molto attuale, quella parte dell'etica che accompagna e riflette sulla cosiddetta rivoluzione biologica, sulle nuove conoscenze scientifiche, infatti di biologia e di genetica, soprattutto a riguardo delle applicazioni che non sono più di fantascienza, ma entrano già nella prassi medica, nella prassi scientifica. Dialogo, si dice, è già nel titolo, quindi vuol dire che ci sono diversi interlocutori. E qui dobbiamo prendere consapevolezza appunto di un interlocutore di grande rilievo, se volete anche di grande dignità. Fino a un tempo abbastanza recente, come dicevo ieri, il discorso morale in ogni settore, quindi anche nel settore medico, biomedico, era in qualche modo monopolizzato dal pensiero cattolico. Oggi, specialmente a partire da questo ultimo ventennio, abbiamo visto la consistenza, non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa, di un interlocutore che chiamiamo così laico, credenza morale laica o morali laiche. Convergenze e divergenze. Non è tanto il nostro assunto, il nostro impegno di fare un inventario di quelle questioni che ottengono consenso da una parte e dall'altra, o eventualmente divergenza. Io direi che questi due termini, convergenza e divergenza, presuppongono un atteggiamento, una tensione per pervenire a una maggiore verità. Certo che l'etica, la bioetica, ha appunto questo traguardo da raggiungere nell'individuare delle norme che siano universalizzabili, norma per sé e nel suo stesso concetto, una qualcosa che si riferisce alla determinazione di ciò che è bene e di ciò che è male, a prescindere da una soggettività che si viene antecedente alla soggettività. I lavori di questa mattina iniziano con la relazione di Antonio Autiero, il quale parlerà del contributo della teologia morale per l'etica nella medicina. Svilupperà la sua relazione da un punto di vista storico, arrivando all'attualità, mettendo in evidenza i problemi che si pongono oggi all'attenzione. Come vedete, lui si inserisce pienamente proprio nel contesto e nella finalità del nostro convegno, del nostro congresso. La medicina ha sempre fatto appello all'etica, anzi diremo che è il settore privilegiato per questa sensibilità etica da sempre, a differenza di altri settori che si muovono verso l'etica in tempi molto recenti, pensiamo all'economia, alla politica, alla scienza in generale, che rivendicavano piuttosto un'autonomia anche nei confronti dell'etica. La medicina invece, a differenza di questi ampi settori, ha sempre dimostrato una sensibilità etica. Ebbene, Autiero si metterà appunto in questa prospettiva, delineando soprattutto il contributo della teologia morale per l'etica nella medicina. Antonio Autiero è un nome conosciuto a livello italiano, non soltanto, ma a livello europeo. Attualmente insegna nelle università in Germania, a cominciare dall'Università di Bonn. È specialista, diremmo esperto, ecco, in campo della bioetica. È relatore e conferenziere apprezzato in questi molteplici e numerosi convegni che ormai si fa fatica anche a seguirli, ci sono un po' ovunque. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni presso riviste specializzate, quindi la scelta sul suo nome penso che sia stata indovinata e adesso stiamo qui ad ascoltare la sua relazione. Grazie per aver accettato. Grazie per avermi invitato. Riflettere su questo tema del contributo specifico della teologia morale per l'etica della medicina. Come loro possono vedere, già la formulazione di questo titolo implica la delimitazione molto marcata del campo. Bioetica è un ambito estremamente ampio, l'etica della medicina, l'etica della prassi medica, entra in una sorta di dipendenza e anche in una sorta di dialettica con l'ambito più vasto, che è l'ambito della bioetica. Quindi, delimitandomi a questo spazio specifico dell'etica medica, dell'etica della medicina, intendo tenere aperto il ventaglio della riflessione, così in maniera prospettica, sull'intero arco della bioetica. L'etica della medicina sta ad indicare anche un segno molto forte, un appello molto grande che nella cultura contemporanea viene fatto suonare in ordine a problemi nuovi che emergono proprio da prassi nuove che la medicina è in grado di affrontare o da prassi che la medicina di domani probabilmente potrà mettere in atto. Ma la prima domanda che giustifica anche il tipo di taglio, quello storico, la prima domanda che intendo pormi è questa, e cioè se sia un nuovo, un fatto nuovo della condizione contemporanea, della riflessione contemporanea, questa accentuazione sul tema etico nell'ambito della prassi medica, o se invece si possa cogliere una sorta di storia sincronica, di storia diacronica, di elementi similari che lungo la nostra tradizione, prevalentemente la nostra tradizione occidentale, hanno accompagnato la prassi medica e la riflessione etica su di essa. Ebbene, partendo da questa domanda, a cui evidentemente la risposta non può che essere positiva, anche per giustificare appunto l'esistenza di questo discorso, partendo da questa domanda direi che porrei come momento iniziale di insorgenza dell'istanza etica nella medicina, porrei questa insorgenza con il mutamento che mi sembra molto determinante avvenuto con Ippocrate. VI secolo avanti Cristo, con Ippocrate comincia un'istanza nuova nell'ambito della pratica medica, e cioè mi pare che con Ippocrate cominci una specie di dissociazione tra elementi religiosi e elementi professionali nell'ambito della medicina. Il giuramento di Ippocrate, questo documento basilare della storia della medicina occidentale, segna a mio avviso il passaggio da una concezione sacrale della medicina a una concezione che oggi potremmo definire di tipo scientifico. Sacrale, quella concezione della medicina che vedeva la ricerca delle cause del morbo, la ricerca delle cause della malattia, immediatamente nel contesto di tipo religioso. Il male sacro, questa opera del Corpus Hippocraticus che in modo più particolare ci richiama a una considerazione, a una riflessione in questo senso, il male sacro scompare, per così dire, nella sua sacralità per ciò che ha a che fare con la ricerca delle cause, e la ricerca, l'eziologia di un'insorgente morbilità, di un'insorgente malattia, viene posta all'interno di cause di carattere archetipo. L'archè delle cose, questa concezione che nella filosofia presocratica, la filosofia iniziale, nella nostra tradizione occidentale ha portato alla diversità di soluzioni, i vari elementi originari che dovevano spiegare in qualche modo l'insorgenza delle cose, la physis, la natura delle cose, questa stessa riflessione di carattere archetipo viene introdotta con Ippocrate anche a proposito della ricerca delle cause della malattia. Mi pare che questo tipo di mutamento da una concezione di carattere sacrale in cui il problema delle cause viene affrontato in contesto religioso a una concezione di ricerca delle cause secondo elementi attinenti alla natura, e qui non mi dilungo sulla concezione dei quattro liquidi che devono armonizzarsi nella costituzione sana del corpo, dell'organismo, ma evidentemente da questi quattro elementi archetipali, da questi quattro elementi iniziali, causali, deriva poi la possibilità di spiegare anche lo squilibrio che insorge in un organismo. A ogni modo, con questo primo passaggio dalla concezione sacrale alla concezione causale, concausale della malattia, mi sembra che entri nella medicina anche in modo più particolare l'istanza etica, e questa istanza etica non deriva immediatamente dal contesto religioso in cui la ricerca delle cause veniva affrontata precedentemente, ma ha a che fare immediatamente con l'agire, con l'atto medico, con la prassi medica. Il giuramento di Ippocrate si può discutere in che senso sia già dentro a questa nuova logica, ossia invece la cerniera di attraversamento da una logica sacrale a una logica di ricerca delle cause, perché probabilmente la concezione di carattere testuale, le categorie, lo strumentario, il vocabolario e il sottofondo a cui questo giuramento si ispira, evidentemente ha ancora dei richiami fortemente di tipo religioso, il nome della divinità che il medico prende a cuore e si fa carico dell'istanza di professionalità nella sua prassi. A ogni modo, pur essendo questo testo il binario di attraversamento da una logica all'altra, mi sembra possa essere preso come il momento iniziale di una introduzione sistematica della istanza etica, dell'agire secondo scienza e coscienza nella pratica medica. E proprio questo riportare alle origini così lontane questa insorgenza dell'istanza etica nella medicina mi pare ci aiuti a comprendere come mai il cristianesimo primitivo, che evidentemente da una parte è a contatto con queste conoscenze di carattere medico-scientifico dell'antichità, della grecità, dall'altra parte però introduce istanze nuove di carattere filosofico, di carattere teologico, una concezione del mondo, della storia e della vita, in che modo il cristianesimo primitivo prende, assume e trasforma questa istanza etica entrata nella prassi medica attraverso questo spostamento di carattere meta-religioso. Mi pare che un segnale di questa maniera di atteggiamento del cristianesimo primitivo nei confronti dell'antichità classica sia desumibile da una sorta di ambivalenza che nei primi secoli di vita cristiana si viene a manifestare. E questa prima ambivalenza vuole essere per me anche il primo spunto, il primo frammento storico, per così dire, per ricostruire questo tormentato rapporto tra teologia e etica della medicina. Subito dopo mi servirò di altri due frammenti, per cui la prima parte di questa mia relazione consta di tre arcate che non sono di tipo strettamente cronologico, ma sono tre temi che attraversano così trasversalmente la storia della teologia e della medicina e costituiscono queste tre arcate la parte storica del mio intervento, mentre invece con una serie di desiderata intenderei affrontare il problema, la seconda parte, e c'è il problema di tipo sistematico. Allora dico la prima arcata. Nel cristianesimo primitivo si consolida un motivo molto interessante, e cioè l'attribuzione al Cristo della categoria di medico. Noi troviamo, soprattutto nella patristica latina, una serie di riferimenti che vanno da Ignazio di Antiochia, ma in modo più forte con Ambrosio e con Agostino, troviamo una serie di riferimenti, di appellativi vari del Cristo che viene definito come medicus unicus, come dice Ignazio di Antiochia, o come Agostino dice il magnus medicus nel sermone 155. Vuol dire allora che immediatamente il recupero di questa tematica della centralità della ricerca di salute entra nel cristianesimo in una maniera molto forte, così che l'opera del Cristo venga immediatamente percepita come opera di carattere sanitario. Questo evidentemente ha un riscontro, un fondamento in quella serie di sommari che soprattutto nei Vangeli sinottici ci portano a conoscenza dell'attività terapeutica di Cristo nel guarire i malati. Sorge una domanda a questo punto. Se l'insistenza, soprattutto nei primi secoli, su questo motivo del Christus Medicus sia un'insistenza dettata da una sorta di opportunismo che qui potremmo definire di carattere pastorale, oppure invece il ricorso a questa categoria abbia un significato molto più profondo. Opportunismo di carattere pastorale da qualcuno viene inteso come una specie di volontà di recupero al cristianesimo, di quella fetta di uditori dell'annuncio cristiano che derivava immediatamente dalla cultura greca e che, essendo abituata a una concezione di carattere religioso, dove la figura del dio Esculapio immediatamente veniva presa come punto di riferimento per risolvere i problemi di ricerca di salute, evidentemente a questi futuri possibili cristiani, per poterli recuperare al cristianesimo, quasi per opportunità, che ripeto potremmo definire di tipo pastorale, sia stata offerta una specie di figura gemellare, un pendant a Esculapio, sarebbe stato il Christus Medicus. Qualcuno insiste su questa possibilità interpretativa, che a me sembra però poco fondata. Non tanto perché non esistesse questa sensibilità di recupero al cristianesimo di nuovi di neofiti, quanto piuttosto per il fatto che mi sembra molto più intrinseco il legame tra attività terapeutica di Gesù e la sua attività di predicazione. In altre parole, la connotazione, il binomio di ricerca di sanità fisica e ricerca offerta di salvezza spirituale o di salvezza integrale, globale dell'uomo, mi sembra nel Vangelo così fortemente radicata che questa possibilità interpretativa soltanto di carattere opportunistico appare evidentemente connotata di una certa debolezza. Cristo è medico perché con il cristianesimo si profila questa possibilità di aggancio della tematica della ricerca di salute con la ricerca di santità, con la ricerca di salvezza. Eppur tuttavia, proprio una concezione di questo genere, che nella Chiesa primitiva ha cominciato a suscitare un interesse forte per la cura dei malati, e qui sarebbe interessante studiare la Historia Caritatis con cui il cristianesimo dai primi secoli è venuto incontro ai malati. Non va dimenticato che proprio in questo contesto della Historia Caritatis, più tardivamente evidentemente, sorgono addirittura istituzioni, ospizi, hospitales, e sorgono addirittura ordini religiosi maschili e femminili che si fanno carico precipuamente, originariamente, della cura dei malati. Dunque una storia della carità nei confronti della cura della malattia, che sta ad indicare l'interesse intrinseco derivante da questa connotazione di tipo, se vogliamo, cristologico, del Christus Medicus, ci sta a dire quanto originaria fosse la presenza nell'ambito della concezione cristiana della vita di questa sensibilità per il bene della salute, e quindi quanta centralità assumesse questa ricerca di salute nell'universo cristiano. Eppur tuttavia, parlavo di ambivalenza, e vorrei essere rigoroso nei confronti di questa ambivalenza che mi sembra di intravedere, mettendo in evidenza il fatto che mentre si sviluppa questo motivo del Christus Medicus e ispira una Historia Caritatis, dall'altra parte si insinua già nel cristianesimo primitivo una sorta di diffidenza nei confronti dell'esercizio della medicina. Questa diffidenza evidentemente ha a che fare con molti fattori che ci pongono il dovere di non essere monocausali nella nostra analisi. Questa diffidenza ha a che fare primariamente con una sorta di mal comprensione, una sorta di dubbio costitutivo con cui la Chiesa già nei primi secoli si accosta all'universo delle conoscenze scientifiche, per come potessero essere scientifiche le conoscenze a quell'epoca. Questa diffidenza mi sembra possa derivare da una specie di sospetto della natura pagana della conoscenza scientifica, per cui il cristianesimo tende a introdurre continui correttivi nei confronti di questa interpretazione pagana che porta all'accentuazione su elementi, fattori, meccanismi di carattere biologico naturale. Accanto a questo sospetto di paganità, di paganesimo, Non va dimenticato anche il ruolo forte che gioca nel cristianesimo primitivo una specie di immagine sacrale del corpo, la sacralità del corpo fisico anche, congiunta questa sacralità alla efficacia che aveva nel cristianesimo primitivo una serie di tabù, il tabù del sangue per esempio. Tutto questo stanno a dire come il rapporto si fa molto complesso. Se da una parte c'è l'interessamento, il tipo di impegno di carattere pastorale, caritativo pastorale, sulla scorta di questa immagine del Cristo medico, dall'altra parte però si infiltrano questi elementi del sospetto. Elementi del sospetto che non restano vaghi nella storia del cristianesimo primitivo, anzi fino ad entrare nel primo Medioevo questo sospetto si costituisce, si prende corpo nel fatto che dalla pratica medica, dalla pratica della medicina, vengano gradualmente esclusi sempre più uomini di chiesa. Troviamo che già il secondo concilio lateranense, cioè nel 1139, ma ancora di più Papa Onorio III, e all'inizio del XIII secolo una serie di interventi di carattere pontificio statuiscono il divieto, arrivano fino al divieto di esercizio della medicina da parte dei chierici e per conseguenza una specie di sospetto che tocca anche quella parte di non chierici, di laicato, che però più fortemente si lascia ispirare da queste normative di carattere disciplinare. Il canone 138 del Concilio Lateranense IV, 1215, statuisce in maniera definitiva questo divieto di esercizio della pratica medica da parte dei chierici, salvo che venga preso, venga chiesto una dispensa papale per coloro che o vivendo in comunità religiose molto ristrette oppure più tardi in azioni di carattere pastorale e missionario abbiano bisogno di esercitare questa professione. Sta di fatto allora che questo primo frammento del disagio, questo primo frammento dell'ambivalenza che viene a costituirsi tra teologia, prassi ecclesiale e pratica medica, mi sembra di poterlo appunto codificare così dal motivo del Christus Medicus attraverso la Historia Caritatis fino al divieto dell'esercizio della pratica medica da parte del clero, ma come dicevo non soltanto immediatamente da parte del clero, ma immediatamente anche una specie di sospetto che si infiltra nell'intera comunità cristiana. Tant'è vero che la ricerca storica di François Minuas a questo proposito è molto indicativa in questo suo corposo saggio La Chiesa e la Scienza. Questa ricerca storica porta a vedere come mai proprio nel tardo Medioevo il nostro universo occidentale cristiano si depopola, scarica sempre di più di medici cristiani e si popola sempre di più di medici che derivano da altri contesti, giudei e musulmani, che esercitano la pratica medica nel nostro occidente cristiano. L'esempio di Mosè Maimonide è indicativo a questo riguardo, appunto di una presenza che intorno al XII secolo è così forte e così efficace, proprio perché probabilmente Minuas esagera un po' nella quantità di questo fenomeno, ma qualitativamente può essere assunto come buono, proprio perché la cristianità assume maggiore distanza nei confronti dell'esercizio della pratica medica. La seconda arcata, il secondo frammento di questa storia di attraversamento, mi sembra possa essere costituita, presa da questa considerazione. Il Medioevo monastico, e cioè Benedetto, ma oltre Alpe Hildegarda di Bingen, e poi Pietro Abelardo, istituiscono nella forma di vita religiosa che di volta in volta si fondano, istituiscono una specie di nuova attenzione nei confronti della corporeità da curare. E qui questa nuova attenzione non è soltanto, come dicevo prima, di tipo caritativo, pastorale caritativo, ma addirittura è una occasione offerta a una riflessione di carattere sistematico, per cui la loro attenzione nella cura della malattia diventa un frammento di antropologia. Si potrebbe dire qui, passiamo da una cura corporis, che viene assunto come compito forte delle regole di questa Mönchenmedizin, di questa medicina monastica che comincia appunto nell'Occidente cristiano, e questa cura corporis fa pervenire addirittura una concezione globale della vita che è ispirata dalla tensione etica di curare la corporeità. Lo storico della medicina di Heidelberg, Heinrich Schipperges, parla a questo riguardo di una centralità della dietetica, dell'etica del nutrirsi, dell'etica del ben vivere sotto il profilo biologico, e questa dietetica che permea la tradizione monastica medievale è un altro punto di grande considerazione, di grande attenzione della teologia e della prassi cristiana nei confronti della prassi medica. E pur tuttavia, ed ecco l'ambivalenza anche a questo riguardo, dalla cura corporis molto spesso ci sono slittamenti che fanno andare a un altro tipo di atteggiamento nei confronti della corporeità, e cioè dalla cura corporis alla castigatio corporis, il corpo che viene fatto oggetto di maltrattamenti che evidentemente non hanno a che vedere con dinamiche di carattere psicopatologico, quanto piuttosto con una volontà di ascesi che permea dal cristianesimo primitivo e il cristianesimo medievale, e che in qualche modo tempera quella grande attenzione al positivo della dietetica, e diventa qui una sorta di impoverimento dell'attenzione nei confronti della corporeità. Anzi, per come qualcuno dice, diventa elemento induttore di una anticorporeità, di un atteggiamento di ostilità alla corporeità. Questo atteggiamento di ostilità alla corporeità, che non è soltanto un fatto di carattere teorico, di carattere astratto, lo possiamo vedere anche qui statuito in alcuni costumi che si solidificano nella prassi cristiana nel Medioevo. E ne analizzo qui brevemente, ne faccio accenno a tre costumi che mi sembra esprimano questa ostilità alla corporeità. Il primo costume ha a che fare con il divieto della cura estetica del corpo, in altre parole e molto più riduttivamente, il divieto del ricorso ai bagni. Nelle regole monastiche, che pure, ripeto, erano pervase da questa volontà di cura corporis, tuttavia si faceva sempre molta insistenza sul fatto che il ricorso ai bagni poteva essere, il ricorso alla pulizia, all'igiene dunque, poteva essere una sorta di indebolimento di quel rispetto per il corpo che domandava una specie di atteggiamento di prudenza, una specie di atteggiamento di pudore, di castità. Nelle regole monastiche il ricorso all'igiene viene ritenuto come un fatto necessario ma estremamente limitato, nel caso dei frati o delle monache malate, quindi una specie di correttivo terapeutico, o invece soltanto per alcune occasioni che in qualche modo mettevano insieme la festa dello spirito con la festa del corpo. Proprio nella regola di Benedetto di Norcia, per esempio, troviamo allusioni a questo ricorso moderato all'igiene fisica in connessione con grandi feste come poteva essere la Pasqua e la Pentecoste. Questa sorta di disattenzione di carattere igienico, igienistico nei confronti del corpo si estende anche al di là della barriera delle mura monastiche come una specie di richiamo di costume pudente, di costume pudico per l'intera cristianità. Un altro fattore di questa manifestativo di questa castigatio corporis che tempera la cura corporis lo possiamo vedere nel divieto che anche qui diventa sempre più incalzante del ricorso alla danza. Nel 1250 vengono nei sinodi locali di alcune diocesi tedesche vengono statuitamente e definitivamente allontanate e vietate tutte le pratiche di carattere carattere festoso che accompagna per esempio il rito del matrimonio. Le danze in questi casi vengono proibite, ma questa proibizione, che prende corpo soltanto così tardivamente, ho citato il 1250, l'epoca che le fa da contorno, in realtà approfondisce le sue radici in epoche molto più antiche. Se pensiamo che già nel 387 Ambrosio a Milano definisce opera del diavolo il ricorso alla danza, e questo per il fatto che la danza mette un significato molto forte sulla corporeità in quanto tale, per così dire manifesta la centralità del corpo, e questa attitudine di centralità del corpo che evidentemente non collima con l'atteggiamento anticorporeo, del castigatio corporis di cui ho parlato sopra, domanda delle prassi molto restrittive. Ma non è soltanto l'igiene, non è soltanto la gioia del corpo, quanto piuttosto anche la necessità di uno sviluppo armonico del corpo cade sotto il taglio così severo dei divieti. E cioè un terzo fattore è l'estremo sospetto che accompagna le pratiche sportive. Anche qui un'ambivalenza, perché il significato originario dello sport viene assunto nel cristianesimo primitivo, pensiamo alla teologia paolina, come una specie di parafrasi dell'avventura dello spirito, e pur tuttavia quando matura questa idea di carattere anticorporeo, castigativa, che il corpo ha bisogno di essere tenuto sotto freno, e si capisce che lo sport è una specie di espansione della corporeità, anche qui allora suonano campanelli di allarme e la prassi cristiana si fa molto severa nei confronti di queste pratiche, per cui si ritiene che ai chierici non si addica la pratica dello sport, e ai cristiani in quanto tale questa pratica deve essere molto, molto limitata, devono essere accompagnate queste pratiche da severi correttivi di carattere penitenziali, e al tempo stesso essere deprivate di tutte quelle possibilità di occasioni che esse possono offrire di mettere il corpo troppo in evidenza. Vedete, allora anche qui la prassi cristiana si manifesta con una sorta di ambivalenza, con una sorta di separazione, di tensione non maturata tra una cura corporis che fa parte della dietetica medievale a una castigatio corporis che stabilisce una specie di atteggiamento anticorporeo che poi attraversa tutta la tradizione cristiana. E un terzo medaglione di questa lettura storica trasversale lo prendo dalla concezione in sé per sé della teologia, e c'è anche qui una teologia che inizialmente si pone al servizio di una interpretazione inglobante del vivere, a una teologia che invece si autocomprende sempre di più come sentinella di controllo di prassi che essa vede sorgere troppo autonomamente dal suo stesso rigore e dal suo stesso compito fondamentale. Fino alla fine del Medioevo la teologia in qualche modo è parte integrante della concezione che l'uomo ha di se stesso, e quindi anche le tematiche di carattere corporeo, i problemi della salute che l'uomo deve affrontare, vengono lette con questa lente primariamente, originariamente di tipo teologico, dove alla teologia viene riconosciuto il compito di orientamento fondamentale, una specie di conduttrice e custode dell'ordine integrale. Il ruolo dunque all'interno di un sistema piuttosto globale, compatto, chiuso, che però non perde quel suo rischio di diventare anche un sistema rigido, un sistema ottuso. A ogni modo questo compito riconosciuto alla teologia di governare la ricerca di armonia, e in questa ricerca di armonia evidentemente va letta anche la ricerca di salute e la pratica della medicina che accompagna questa ricerca di salute. Io direi che questo compito della teologia di governare, di amministrare la ricerca di armonia, non lo troviamo soltanto nel nostro contesto occidentale. lo troviamo anche in espressioni di impegno per la salute, per l'igiene, così come era possibile perseguirlo anche all'interno dell'universo arabo. Ecco perché fanno tanta fortuna, accanto alla scarsa presenza di medici cristiani in Occidente, fa tanta fortuna anche la presenza di medici arabi, perché si collima in qualche modo la stessa intenzione e tensione di fondo anche nella medicina araba di una ricerca integrale della salute come fattore globale, in cui il fattore religioso, l'elemento religioso, gioca anche il suo ruolo. Un esempio molto eloquente di questo atteggiamento di ricerca globale dell'armonia e quindi di un contributo al positivo della teologia sulla prassi medica, un esempio molto eloquente a questo riguardo lo si può trovare nell'opera non soltanto scritta, ma nell'opera come prodotto di vita del medico filosofo, dell'errabondo del Rinascimento, del tardo Medioevo, e cioè di Paracelso. Ma proprio questo fa capire come la teologia soffra ancora di una sorta di malcelata schizofrenia tra interesse per la globalità e pur tuttavia sospetto della centralità del corpo. Difatti Paracelso, che matura all'interno di un contesto per così dire acculturato cristianamente, i suoi rapporti con la teologia hanno situativamente il loro punto di riferimento nella città di Basilea, dove vive Erasmo, dove vivono spiriti illuminati del tardo, dell'ultimo Medioevo, del primo Rinascimento. L'apertura di Paracelso ai temi della teologia costituisce per lui anche l'ampliamento del ventaglio, delle attenzioni su questo fatto nuovo che è la considerazione della ricerca globale dell'armonia, tant'è vero che Paracelso nella sua opera scritta a proposito dei medici che devono esercitare la loro professione, cioè il Labyrinthum Medicorum Errantium, fa appello a una categoria primaria che deve presiedere l'etica del medico, e cioè alla categoria di sapienza, perché egli dice in un certo modo le strutture fondamentali del nostro corpo non sono conoscibili attraverso ciò che noi possiamo mettere insieme con le nostre acquisizioni scientifiche, ma sono conoscibili attraverso questo strumento che è la lettura sapienziale, cioè la volontà di cogliere in questa ricerca globale di armonia il filo conduttore. Ma la Chiesa si atteggia nei confronti di Paracelso, come minimo la cristianità si atteggia nei confronti di Paracelso con lo stesso sospetto con cui inizialmente si atteggia nei confronti di Lutero. Tant'è vero che qualche storico della medicina definisce Paracelso Luther Artium, il Lutero dei medici. È per la medicina quello che Lutero ha costituito per la teologia. Evidentemente questo sta a dire che questo fattore inizialmente originario della teologia di dare una risposta globale alla ricerca di armonia, in cui si inseriva anche il tema della salute, perde gradualmente di spessore, di quotazioni, in vista di una teologia che in qualche modo assume, cavalca, adopera, si serve o probabilmente anche fomenta una specie di rottura dell'unità, rottura di questa ricerca globale dell'armonia. La teologia viene accompagnata da una sorta di puntualizzazione o di istanza fortemente moralizzatrice nei confronti di questa prassi medica che sempre più conosce se stessa, si autocomprende, si autodefinisce e esplora i campi di intervento delle sue possibilità. In questo io vedrei, in questo passaggio da una teologia come forma inglobante fino al tardo Medioevo, esempio ultimo ma anche qui di cerniera Paracelso, a una teologia che invece perde il colpo nella sfida che il pensiero scientifico con il Rinascimento e con la modernità introduce nel nostro orizzonte culturale occidentale. In questo passaggio, a mio avviso, la teologia finisce per diventare forza disgregante e non più forza inglobante, e diventa una forza disgregante per il fatto che essa da una parte sottolinea fortemente l'istanza di carattere religioso, ma alla maniera pre-ippocratica, e dunque fa molto, molto forte un richiamo alle strutture fondative dell'agire etico in nome di una concezione di carattere religioso, e dall'altra parte fomenta, direi vigila e incrementa l'insorgere di un atteggiamento di tipo deontologico, cioè di controllo del costume di coloro che svolgono la prassi medica. E vedrei in questi due fattori, cioè il ritorno a una ripresa di carattere fortemente religioso della riflessione etica della teologia nei confronti della medicina, e dall'altra parte l'incremento molto forte dell'indole giuridica, giuridico-legale, deontologico-giuridico-legale con cui essa accompagna la medicina. In questi due fattori mi pare di vedere la connotazione dissociativa di quella teologia che ha perduto la sua carica interpretativa della forza della forma inglobante. Questa connotazione si aggrava per due concentrazioni che la teologia accetta in se stessa, concentrazioni nell'ambito della prassi medica, cioè da una parte una concentrazione di tipo concettuale, voglio dire una concentrazione sulla concezione statica di natura biologica come manifestativa comunque di un ordine in cui si esprime l'ordine divino, quindi l'assunzione di un concetto statico di natura, di un concetto statico di natura biologica, e dall'altra parte una concentrazione sull'individuo, sulla persona, ma nel senso individuale, nel senso dell'io singolo. Queste due accentuazioni, e cioè da una parte la natura biologica come dettatrice di norme e dall'altra parte l'individuo come soggetto di queste norme, chiudono il ventaglio della teologia e le restringono il campo di azione nei confronti di una scienza, che scienza medica, che invece si va espandendo sempre di più. E in questa scollatura, che evidentemente accompagnerà attraverso l'illuminismo la riflessione della nostra epoca contemporanea a proposito di etica medica, almeno fino al magistero di Pio XII, questa scollatura mi sembra che sia una specie di peso frenante della nostra riflessione teologica nell'ambito della bioetica e in particolare dell'etica medica. Pio XII assume in pieno queste due connotazioni di cui ho parlato, e cioè il concetto biologico, staticamente biologico di natura, e il concetto isolativamente individuale di persona, e elementi di questo di questa concentrazione del pensiero di Pio XII a questo riguardo mi sembra siano individuabili nel suo insegnamento a proposito del principio di totalità. Difatti è proprio a proposito del principio di totalità che si manifesta sia l'incidenza naturalistico-biologico statica del concetto di natura, sia l'incidenza della delimitazione individuale, individual personale del suo concetto di uomo. E allora evidentemente questa griglia di lettura, queste tre arcate che la teologia ci presenta o con le quali noi possiamo presentarci alla teologia, ci fanno capire che questa teologia può accettare il dialogo con la nuova situazione della scienza e della biologia in particolare, se ricalibra la maniera equilibrata di atteggiarsi all'interno di queste tre angolazioni di carattere ambivalente, cioè se tra divieto di approssimazione alla medicina e lasciarsi provocare da essa, se da una sorta di corporeità idealizzata e di corporeità rifiutata, se tra una sorta di forma inglobante di impostazione e in qualche modo equilibri nuovi, allora essa entrerà più fattivamente nel dialogo con le scienze biologiche, le cui sfide oggi non sono soltanto quantitativamente maggiori, ma sono anche qualitativamente più impellenti. E vengo così allora ad una breve seconda parte del mio discorso, che introduco con il termine di desiderata. Sono i desideri che un teologo esprime nei confronti della teologia che pratica, ma anche della prassi medica e della concezione filosofica della medicina con cui ha a che fare. Questi desiderata, come tutti i desideri, devono essere espressi con moderazione, ecco perché non entro molto dettagliatamente nell'analisi di queste spessori, di questi frammenti di desiderio, e vogliono essere anche un'evocazione che probabilmente allargano il nostro discorso nella discussione. Il primo desiderio, il primo di questi desiderata, è il superamento del dualismo anima-corpo, in forza di una ritrovata unità. Questa unità, la teologia della tradizione ebraico-cristiana, senza idealizzare questa tradizione, ma della tradizione ebraico-cristiana, questa unità l'ha concepita, ha disegnato un'immagine di uomo, dunque si è servito di un paradigma antropologico dove il dualismo, potremmo dire, è la fase posteriore. La fase invece originaria non è di carattere dualistico, ma è di carattere olistico. Qui evidentemente l'analisi di come mai si è entrata nella tradizione questa svolta di carattere dualistico e i fattori che hanno provocato questa svolta non è compito di questa relazione, ma affrontarlo, ma soltanto evocarlo. Pur tuttavia questa unità che la teologia in qualche modo nel decorso del suo svolgimento ha perduto, ha provocato tra l'altro una sorta di accentuazione anche nell'ambito della medicina di una specie di primato del biologico. Ora, se la teologia risolve questo suo problema di ritrovamento dell'unità perduta, probabilmente aiuta anche la medicina a superare questa accentuazione unicamente di carattere biologico. Un campo nel quale questo desiderio va praticato è il campo, ancora teorico, della discussione di due figure, di due metafore fondamentali con cui noi affrontiamo l'etica della medicina, e cioè la metafora della qualità della vita e la metafora della santità della vita. Questo che sembra un dilemma insormontabile, il diaframma tra ricerca di qualità a discapito della durata o di prolungamento della durata a discapito della qualità, della dignità, questo diaframma la teologia può aiutarlo a superarlo. Non dico che la teologia da sola sia quella che contiene una risposta a questo dilemma, ma può entrare qui in dialogo con le scienze biologiche, con le prassi mediche, per capire quali potrebbero essere le piste per superare questo diaframma, per superare questo dualismo. E quindi il primo desiderio ha a che fare immediatamente con una ricomprensione, se volete, il primo contributo che la teologia può dare all'etica della medicina è quello di rimettere in discussione in se stessa, ripensare alle sue movenze storiche, ma anche alle sue possibilità di incidenza, ripensare questo tema del superamento del dualismo e la ripresa di una connotazione olistica. Un secondo desiderio è quello di apportare un contributo di riflessione nuova nel contesto della discussione che oggi è molto fortemente sentita, e cioè della ripresa di livelli di professionalità della pratica della medicina. Qui sarebbe molto interessante rianalizzare la evoluzione storica con cui il mestiere di medico si è presentato nella nostra civiltà occidentale, le figure fondamentali di accostamento del medico al sacerdote, come siano gradualmente andate perdute in forza di una ripresa di livelli professionali appoggiati a una conoscenza scientifica che ha molto a che fare con quello che ieri è già stato introdotto, e cioè il tema della oggettualizzazione dell'altro. L'altro, il malato, è oggetto rispetto al soggetto che è il medico e che lo conosce. questa sorta di distanza che si è stabilita tra il soggetto conoscente e l'oggetto da conoscere ha potuto sopravvivere in forza del filtro che il medico ha adoperato, e il filtro è appunto la corporeità. Il bios, il corpo del malato, è diventato l'oggetto su cui, il terreno su cui, il medium su cui il medico ha esercitato la sua attività di soggetto, e il malato ha subito la sua sorte di oggetto. Evidentemente allora, se questo da una parte ha contribuito a una crescita di conoscenze, dall'altra parte però ha portato anche a una rottura del rapporto antropologicamente terapeutico tra medico e paziente. E allora capisco l'istanza con cui Ivan Illich fa appello a qualcosa che venga dopo questo tipo di ethos della professione, e Illich parla di una necessità di un ethos post-professionale. Direi che la teologia può immettere dei germi vitali nella discussione a questo riguardo, non tanto scalibrando di nuovo il tema del rapporto tra professione e impegno sociale, quanto piuttosto facendo ricorso e mediando, traducendo, trasportando nell'ambito della prassi medica una categoria tipicamente teologica, assunta come minimo nella nostra concezione occidentale dalla teologia, e cioè la categoria dell'agire virtuoso. Allora, questo secondo desiderio che da teologo esprimerei alla teologia è che ripensi e riconsegni alla prassi medica nuovamente la valenza del tema della virtù come superamento della dissociazione tra ethos professionale o post-professionale. Il tema della virtù fa centro sul fatto che chi esercita questa prassi medica acquisti un carattere, ecco perché molto spesso questa etica della virtù viene anche definita come etica del carattere, etica dell'atteggiamento, etica dello stile, e qui ethos non significa soltanto un costume statuito, ma ethos significa appunto stile di vita. Il terzo desiderio ha a che fare immediatamente con il superamento di quella strettoia di carattere individuale, individualistico, di cui ho parlato sopra. Lì la teologia, forse senza accorgersene, perché nel complesso si è mantenuta distante dal progetto della modernità, ma lì senza accorgersene la teologia ha assunto quest'istanza della modernità, che è appunto l'istanza dell'individuo, la creazione dell'individuo. Perché infatti è proprio con la modernità, dopo la spaccatura di carattere gnoseologico tra soggetto e oggetto, c'è la spaccatura di carattere antropologico, cioè tra l'io individuale e il resto del mondo, e convince molto l'analisi che a questo proposito fa McIntyre quando diviene la conclusione che il prodotto tipico del pensiero moderno è l'individuo nel suo castello, nella sua rocca di isolamento. E la teologia, probabilmente l'etica che la teologia ha prodotto, ha assunto questa categoria e in qualche modo non ha compreso il parametro, direi, di carattere orizzontale. E qui orizzontale sta a dire non tanto l'indole piana, quanto piuttosto il carattere di orizzonte. L'uomo è nell'orizzonte della comunità degli uomini. Per cui a una teologia che voglia entrare in dialogo con la medicina andrebbe chiesto questo ripensamento del rapporto tra persona e comunità, e questo la teologia lo può fare in ordine alla rielaborazione della categoria di solidarietà, del principio di solidarietà, e alla categoria di giustizia. Ora la teologia, se si mantiene in una maniera troppo arroccata su questo senso del limite individuale, perde anche la possibilità di entrare in dialogo con la riflessione che in bioetica o a côté della bioetica si va sviluppando sul tema della giustizia. Non è soltanto la teoria di giustizia, della giustizia di Rawls, ma sono tante altre istanze. Io penso per esempio alla istanza che l'etica femminista sta fortemente accentuando su una concezione al femminile di giustizia, che potrebbe offrire alla teologia nuovi spunti per entrare in dialogo con la prassi medica, con l'ethos della prassi medica. E infine, l'ultimo desiderio trasborda anche un po' probabilmente i limiti del mio del tema che mi è stato affidato, ma lo ricollega probabilmente nel disegno globale di questo nostro convegno, e cioè che la teologia aiuti la medicina a superare la concentrazione biologica in forza di una concentrazione di carattere biotico. E qui la categoria biotico la prendo nell'accezione di Aldo Leopold, il quale perviene all'idea che quando l'umanità comprenderà il suo dovere etico, non tanto più in ordine ai rapporti interpersonali da regolare, ma in ordine ai rapporti tra specie diverse o all'interno dell'unico ecosistema, dei subsistemi diversi, allora l'etica avrà fatto il suo salto di qualità. Alla teologia si può chiedere che questo salto di qualità che l'ethos della prassi medica vuole fare venga coadiuvato, venga sostenuto. Perché la teologia, in ordine a quelle concezioni, considerazioni di carattere teologico, della teologia della creazione di cui si è parlato ieri, la teologia ha il germe di questa apertura biotica, che non è soltanto l'apertura universale in senso orizzontale, ma è un'apertura universale anche in senso verticale. Ecco, una teologia che voglia entrare nel tessuto vivo di questi nuovi frammenti di ethos che la medicina chiede e che l'umanità contemporanea domanda per poter concepire un suo punto di vista nei confronti di ciò che le avviene sotto gli occhi. Ecco, questa teologia non è esclusa dal dialogo, non è esclusa da questo banchetto delle idee, a condizioni che sappia sedersi al posto giusto e sappia ripulire gli strumentari che le possano consentire di entrare nel consesso di queste discussioni. Ecco, questo mio contributo voleva essere uno spunto di riflessione a questo riguardo. Grazie. Questa malattia specifica dell'epilessia, il male sacro, viene attribuito in qualche modo all'intervento del demonio e percorre tutto l'arco di questi 2000 anni di cristianesimo fino all'intervento dell'attuale pontefice nell'88 in questa sua catechesi del mercoledì, che io ho avuto modo i cui effetti ho avuto modo di constatare nel successivo congresso nazionale italiano dell'epilessia pochi mesi dopo, dove appunto il Papa attuale dice non si può escludere che in questo tipo di malattia possa individuarsi l'intervento del demonio. Ora io credo che su questo volevo inserire un altro elemento che si collega peraltro, che è questo duplice modo di collocarsi da parte del cristianesimo riguardo un po' della malattia in genere. Da una parte la colpevolizzazione della malattia, comunque, che deriva così dall'origine del peccato originale, eccetera, eccetera, tutta la teologia, insomma. E dall'altro, un elemento così che fa dualismo con questo, la sofferenza vicaria, in qualche modo, cioè la malattia come sofferenza vicaria, perciò come momento, io penso a tanti pellegrini pellegrinaggi di Lourdes e a tanti momenti di sublimazione dell'elemento malattia come sofferenza vicaria. Ecco. Non so quanto questo doppio modo di porsi nei riguardi della malattia possa aiutare molto o possa contribuire a un'etica medica e a un rapporto con la malattia. Io penso per esempio a tutto il problema che l'AIDS ha suscitato in questo ambito, no? Dove c'è, è facile cioè trovare, non solo in il povero Donat Cattin che insiste sull'elemento di colpevolizzazione, insomma, no? Questa è la punizione per una colpa, no? Ma che recupera però tutta un'elaborazione in qualche modo teologica su questo, secondo me piuttosto grave e decisamente deviante. Credo che la teologia su questo terreno, se lavorasse veramente, potrebbe in qualche modo attraverso comprensione di sé, di quanto è venuta elaborando e le esigenze di porsi in modo diverso per il futuro. Diciamo. Ecco. Reagisco inizialmente a questa domanda, più che altro a questa precisazione del signor Rauzzi. Mi sembra anche molto interessante il suo spunto e arricchisce anche il discorso che ho fatto, di questo ulteriore elemento, e cioè dell'interpretazione eziologica della malattia ancora legata al senso della colpa, potremmo dire nel contesto cristiano, il binomio malattia e peccato, un binomio fortemente presente già nella letteratura rabbinica, ma che in qualche modo il cristianesimo tenta di spezzare. L'opera persuasiva a questo riguardo di l'annuncio salvifico di Gesù pone una specie di barriera, di argine a questa concezione del binomio tra peccato e colpa. La letteratura rabbinica era stata molto abbondante a questo riguardo, addirittura prevedendo una specie di catalogo di colpe a cui corrispondevano determinate malattie, anzi addirittura malattie che con cui si nasceva, potremmo dire oggi malattie ereditarie. La letteratura rabbinica le attribuiva a peccati che il feto poteva compiere nell'utero materno. C'è un forte aggancio tra senso del peccato e insorgenza della malattia. Evidentemente il cristianesimo non ha del tutto elaborato, digerito questa rottura di ottica che Gesù ha immesso nella concezione del binomio. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, quando gli chiedono chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori, allora concezione che anche i genitori potessero peccare, che i peccati dei genitori si trasmettessero come insorgenza di malattia sui figli, Gesù dice né lui né i suoi genitori, ma la logica è tutt'altra. Ecco, in quanto alla tradizione che si è sviluppata successivamente, fino a quanto sia stata fedele la tradizione cristiana a questa dirompente analisi del messaggio di Gesù, è tutto da discutere ancora, perché evidentemente ci sono dei ritorni molto forti a quella concezione pre-cristiana della interpretazione magica e dell'interpretazione tabuistica della malattia. Credo che però la medicina abbia molto preso sul serio il compito di dissociare questi due fenomeni che hanno una loro riunificabilità intanto perché ambedue si riferiscono all'uomo, ma che però non hanno una giustificazione di carattere eziologico reciproca, l'una non è causa dell'altra. La medicina questo l'ha potuto fare, e questo l'ha fatto in modo particolare anche nell'insorgere della civiltà industriale, per ciò che riguarda per esempio i malati di tubercolosi, ma anche precedentemente per i malati a cui si riferiva anche lei, i malati mentali. Se pensiamo che le analisi di Foucault sull'insorgenza, all'origine della clinica, testimoniano come la creazione all'interno di ospedali, di reparti di carattere neurologico, potremmo dire oggi, dove si curava la malattia mentale, abbia contribuito molto forte a questo salto di qualità di civiltà, di considerare anche questi soggetti epilettici non come indemoniati e dunque afferenti a una sfera di gestione di tipo religioso rituale, ma invece come dei malati e quindi bisognosi di cure in cui l'ospedale era l'istituzione immediatamente corrispondente. Ecco, l'insorgenza degli ospedali e la creazione di reparti psichiatrici nell'ospedale in Europa comincia questo sicuramente già intorno al 1400, uno dei primi ospedali che abbiano istituito un padiglione, un reparto di malattie mentali è lo Julius Spital di Würzburg, dove il vescovo aveva comandato appunto la costruzione dell'ospedale e l'immissione di questo reparto per la cura delle malattie mentali, e sicuramente più tardivamente con il XVIII secolo anche qui lo sdoppiamento del binomio colpa e malattia per ciò che riguarda la tubercolosi, la cui causa veniva riferita non tanto al contesto di tipo sentimentale del romanticismo, quanto piuttosto al contesto insorgente della industrializzazione, quindi una malattia di eziologia di carattere sociale. Dunque direi che la teologia deve assumere questo compito di pulizia argomentativa nel rapporto tra manifestazione di un fenomeno morboso e ricerca delle cause. Ora, quanto la nostra teologia contribuisca, se ritorna su queste categorie di cui ha parlato anche lei, è certamente un punto molto delicato, molto nodale. Probabilmente all'interno di questi appelli di ritorno, per così dire, a questa considerazione di carattere religioso di alcuni fenomeni di malattia, si potrebbe leggere al positivo, la volontà di leggere al positivo c'è, si potrebbe leggere al positivo una sorta di desiderio di riconduzione all'universo totale dell'essere umano. Però questo non mi pare sia sufficiente per farci dire dunque che dal punto di vista eziologico questa malattia debba essere attribuita alla presenza di spiriti malefici o di personificazione del male o appunto di indemoniamento. D'altra parte la prassi religioso, rituale dell'esorcismo potrebbe essere un interessante campo da studiare per vedere come decresce il ricorso all'esorcismo proprio in funzione di una crescita di conoscenza scientifica dell'eziologia di questo male. Io mi chiamo Compagnoni. La domanda di Autiero: da dove viene nel cristianesimo il dualismo fra anima e corpo? È una domanda a cui è stato risposto almeno da 50 anni. Viene dal rabbinismo, cioè è di origine della letteratura intratestamentaria. Quindi anche il discorso di ieri sulle fondazioni bibliche di un'etica cristiana bisognerebbe distinguere fra storia biblica, sociologia delle epoche bibliche, tutte queste cose. Se pensate all'anticorporeità per la nostra sensibilità delle lettere di Paolo, è evidente questa letteratura, viene da lì, e tutti i padri sono anticorporei perché sono su questa linea. D'altra parte tutta l'etica sessuale cristiana, tranne gli ultimi 20 anni, è tutta di origine rabbinica. Se leggete manuali sia classici che moderni di rabbini ortodossi, sembra un manuale cattolico, cioè siamo noi che siamo come loro. Da un punto di vista storico però io avrei una grossa difficoltà, essendo io professore all'Università di San Tommaso, dove insegniamo ancora a partire da Tommaso, su questa nozione di sport. Cioè, innanzitutto io direi che la nozione di sport, nozione inglese del secolo XIX, non ha nulla a che fare con la ginnastica dei greci, con ciò che Aristotele dice del piacere della danza, della corsa, del lancio, del giovellotto, eccetera. Cioè, la ginnastica, quello che veniva fatta, non era competitiva. Non dobbiamo pensare ai giochi olimpici, sono due cose diverse. Il gioco olimpico è una faccenda, la ginnastica è un'altra. E Aristotele dice che la temperanza regola il piacere del tatto, che è tipica dei movimenti corporei. Allora, nel XIII secolo, quando c'erano queste proibizioni sulla danza, non erano contro il corpo, ma contro, partendo dall'idea che il piacere del tatto è quello che ci sfugge più facilmente, e essendo una sottospecie del piacere sessuale molto pericoloso. Allora il collega di sociologia della conoscenza credo che qui avrebbe molte cose da vedere. Un'ultima notazione a difesa dei monaci: gli studi del Pirin sull'Europa del secolo X, cioè l'Europa dell'anno 1000, mettono in rilievo ancora una volta la distinzione fra i bagni nei monasteri, che erano balnea e che facevano venire in mente i ginnasi antichi, omosessuali, tutte queste cose, e l'igiene. Era due cose molto distinte. Si facevano i bagni un paio di volte all'anno, ma l'igiene era quotidiana. I metodi, scusate, di lavarsi i piedi tutte le sere era un obbligo nei monasteri. E nel secolo, diciamo, X, quindi figuriamoci poi nel secolo XIII, erano dei modelli di igiene. Quindi direi che queste arcate sono un po' troppo grosse, sono. Evidentemente il collega non poteva fare che questo, però a proposito del tatto, così che mi interessa perché è il concetto su cui in Tommaso gioca la sessualità e la concezione del corpo, mi sembra più complessa che una faccenda di magia, demonio e faccende di questo genere. Gian Piero Boff. Io vorrei riprendere un momento il tema accennato, introdotto proprio dal professor Rauzzi, perché mi pare che rappresenti un nodo abbastanza interessante. La risposta alla quale io, ma forse noi, tendiamo di fronte a questi ritorni di fiamma nella colpevolizzazione del peccato, della malattia, eccetera, è quello di appellarci al ripresa di una mentalità mitica, eccetera, e che ha forse anche una sua buona ragione. Però credo che si debba pensare un pochino più a fondo, anche per capire quella che è stata detta la novità introdotta da Gesù. E a questo proposito, proprio richiamandosi a San Giovanni, si potrebbe addirittura appellarsi un pochino più indietro, a Geremia e ad Ezechiele anche, no? Ma che cosa accade qui? Accade che il discorso sulla responsabilità, o quantomeno sulla inevitabilità della sanzione per il male compiuto da altri, che è il tema comune nelle parti antiche dell'Antico Testamento, il famoso "i nostri padri hanno mangiato l'uva acerba e a noi sono rimasti legati i denti", appare in un contesto ben preciso, un contesto che, proprio non essendo moderno, non possiede il concetto di individualità che è stato indicato come tipico del moderno. Un contesto nel quale è implicata una forma di comprensione simbiotica, solidale, come si voglia dire, degli uomini, dell'umanità. Ora, tutto questo ha una portata allora, ma che poi è stata riaffermata nel cristianesimo in maniera molto precisa. Al di fuori di queste correlazioni è impossibile comprendere quello che noi diciamo del peccato originale, ed è impossibile comprendere, io credo, in quel contesto quello che noi diciamo della redenzione del Cristo. Dunque noi non possiamo sbarazzarci troppo facilmente di questi legami. Se lo possiamo, e forse lo dobbiamo fare, bisogna avere chiara coscienza di tutto quello che dobbiamo ripensare. E con l'ultima cosa che aggiungo, il pericolo qual è? È che noi attribuiamo a Gesù di aver superato questo legame, no, della espiazione, della sofferenza con un male compiuto da altri, con la recupero, l'affermazione, l'anticipazione proprio dell'individualismo moderno, perché è chiaro che il nostro concetto di responsabilità personale è strettissimamente legato, se non perfettamente identico, con la concezione che noi abbiamo dell'individuo. Ecco, io credo che quando si impostano questi discorsi bisognerebbe tenere ben conto di tutte queste correlazioni, per non proporre da un lato una soluzione di un problema di cui neghiamo la possibilità nell'altro momento, quando per esempio, io credo giustissimamente, ci poniamo in posizione seriamente critica verso questo individualismo. Grazie. Mori? Molto brevemente, visto che il professor Compagnoni ha attaccato la seconda arcata, o comunque quella, io avrei da dire sul giuramento di Ippocrate, molto brevemente, perché mi pare che la lettura, forse per ragioni di tempo, del giuramento di Ippocrate non ha tenuto presente vari aspetti, ad esempio che all'inizio dell'epoca cristiana non era assolutamente accettato, a parte la questione che nel mondo greco era un giuramento di minoranza e che forse più che un afflato etico aveva problemi strettamente corporativi di mantenere una casta, che questo però c'è tutta una discussione che adesso non posso sviluppare qui sul rifiuto da parte dei cristiani agli inizi e ancora nel X-XI secolo del giuramento di Ippocrate, che viene accettato solo più avanti. Il problema dell'inizio, io giuro in nome di Apollo, e allora non si può fare. L'altra osservazione che invece volevo fare riguarda la metafora qualità e santità della vita, sulla quale io non credo che sia una metafora, ma credo che sia qualcosa di ben più solido e più puntuale di principio. E proprio in questo discorso sui principi, direi che secondo me c'è, con questo concludo, perché, un discorso che non mi pare sia stato elaborato a sufficienza, cioè il dialogo tra la teologia e le scienze mediche. Dice, se ho ben capito, la metafora qualità e sacralità della vita deve essere superata dialogando con le scienze mediche. Il problema di fondo è che in questa impostazione si dà per scontato che le scienze mediche siano qualcosa di dato, la teologia dall'altra parte è qualcosa di dato e bisogna cercare di dialogare. Ma questo modo è fuorviante. Il problema di fondo oggi è che la stessa medicina è in crisi. Questo è vero che i medici non lo sanno o fanno finta di non saperlo, ma il fatto che ad esempio si parli di medicina dello sport, e mi pare da queste parti c'è stato quel fatto degli anabolizzanti, è il fatto che si parli di medicina dello sport. Si parla di medicina dello sport, ma la medicina dello sport è un quadrato rotondo, cioè è qualcosa che non è medicina, secondo il concetto tradizionale, perché la medicina tradizionale aiuta a recuperare le forze, la medicina dello sport vuole andare al di sopra della norma. Voglio dire, la chirurgia estetica o la medicina estetica, si parla di medicina estetica, ma è un altro quadrato rotondo, perché essere brutti non è compito del medico, no? Se volete, dopo se andiamo in campo sessuale, no, in campo sessuale il problema della terapia genica o comunque degli interventi di carattere genetico è chiaramente un'altra rivoluzione, perché mentre l'aspirina aiuta un corpo che è qualcosa di dato, la terapia genica trasforma il dato. Quindi voglio dire, se non si tiene conto di queste cose, e qui mi permetto di dire che l'esigenza di rigore è stata richiesta, ma il rigore va fatto con discorso definitorio, concettuale, l'analisi specifica, eccetera. Quindi lo dico della biologia, scusate, l'ho detto prima della medicina, se passassimo alla biologia, i biologi credono di sapere, ma non è vero, perché le categorie stesse della biologia sono in crisi. Se non partiamo da quest'idea, allora l'impostazione, il dialogo va fatto, ma va fatto è una cosa più complicata. Ecco, non so se mi sono spiegato. Dunque, dobbiamo per forza di cose chiudere gli interventi, che probabilmente ce ne saranno altri, però non defraudo nessuno perché i lavori continuano anche il pomeriggio. Il professor Compagnoni non può posticipare la sua relazione, deve tenerla chiaramente nella mattinata perché poi deve andare via. Allora, prego Autiero di rispondere brevemente, anche perché la gente, proprio per questa etica della medicina, ha bisogno anche di un intervallo. Quindi io ti pregherei di essere molto... Ecco, la risposta è veramente molto breve. Per Compagnoni non c'è bisogno di risposte, sono degli stimoli molto utili per il completamento. E a Boff volevo dire soltanto questo, ma al discorso che tu suscitavi, mi pare che ci sia la confusione, non in tema, in quelli che si appellano a un ritorno di questo binomio malattia e colpa, la confusione del livello della ricerca delle cause che mette insieme i due elementi e la ricerca di senso che mette insieme i due elementi. E sono convinto che il mondo semitico e il mondo cristiano abbia, per ciò che attiene al livello del senso della malattia, una concezione meta-individuale. E quindi questo ritorno alla colpa dell'uno, come dire, al fenomeni di trasbordamento tra il livello del singolo individuo malato e della sua famiglia. Allora direi soltanto, con questa categoria molto brevemente, di essere attenti a non confondere il livello della ricerca delle cause, l'eziologia della malattia, e la ricerca del livello del senso, che ha a che fare direttamente con il quadro antropologico a cui ci si riferisce. E a Mori, sì, il rifiuto di Ippocrate, non dimentichiamo, Ippocrate in un primo momento, ma questo secondo il mio parere, ha a che fare col fatto di voler accentuare, di aver voluto accentuare il motivo del Christus Medicus, quando poi tardivamente l'universo cristiano riassume, non dimentichiamo, viene riassunto il giuramento di Ippocrate anche da altri contesti religiosi nel mondo musulmano, cambiando il nome di Apollo con il nome di altri dei, quindi in qualche modo questo paradigma viene mantenuto, si cambiano soltanto i punti di riferimento. Perciò che io definivo metafora, non era un indebolimento del rigore della categoria di principio a queste due figure, della qualità e della santità della vita, quanto piuttosto appunto di voler attribuire a queste due realtà tutto il significato evocativo che una metafora ha nel modo in cui ispira una lettura della realtà e diventa principio per regolare questa realtà stessa.